l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, in questo sabato 30 luglio, assolatissimo, siamo qua in diretta agli studi di Milano della Radio 24, i compari dei conti della Belva, Oscar Giannino come sempre che vi saluta per l'ascolto in diretta e in podcast. Carlo Alberto Carnevale Maffè. E Mario Seminerio. E Renato Cifarelli ci raggiungerà più tardi. È ovvio quale sia l'argomento principale della puntata, io come al solito vi anticipo gli argomenti per consentirvi di prenotarvi e telefonare all'800 24 00 24. Per le opinioni lo sapete, gli sms sono 349 238 6666, 349, ho sbagliato il numero l'ultimo giorno, è pazzesco, fuori da ripeterlo tutte le volte. No dai, non dire l'ultimo giorno più, che l'ultimo poi dopo giorno la gente di ci luglio, crede, esatto, dai. C'è anche Twitter l'ultimo giorno della programmazione estiva, ecco. E noi diciamo agli ascoltatori di Radio 24 che attualmente Radio 24 continua la programmazione a settembre, ci sarà, siamo un po' indietro con i contratti ma in qualche modo si porrà riparo e si capirà. Quello che certo che i compari dei conti da Belva numero uno, cioè Mario, Carlo Alberto, Renato e Cioda, ci saranno, vedremo sottoscritto, però dicono di sì, vediamo. Allora, detto questo, no, quindi nessun terrorismo da parte mia, semplicemente un po' singolare che questi contratti non ci siano. Detto questo, gli argomenti sono chiarissimi, partiamo come sempre da alcuni dati macro, perché in settimana ci sono stati il rallentamento europeo, il dato al PIL americano anch'esso un po' tossicchiante, i dati sull'occupazione e poi però, come sapete, ieri sera gli stress test europei, questa nuova tipologia di stress test, i risultati comparati dei diversi sistemi bancari sulla cinquantina di maggiori banche, ce n'è anche una parte riservata che riguarda un'altra cinquantina e le banche saranno libere o meno di dichiararne il risultato, però insomma ci sono dei dati comparati su cui riflettere tra la tenuta complessiva del sistema italiano, tedesco, francese, irlandese. Vediamo che in complesso, come vedremo, il sistema italiano è andato un po' meglio, significativamente meglio anzi di quanto i pessimisti potessero aspettare. Ci abbiamo la peggior banca europea come MPS, tedeschi meno bene di quanto si aspettasse, però il problema è che a questo poi si aggiunge, quindi a questo esame complessivo, un giudizio su la doppia manovra varata ieri nel Consiglio di amministrazione del Monte Paschi, appunto la banca più... così un po' scazzonte, un po' zoppa in tutta Europa e come sapete un piano di liberazione dai conti della banca di una massa cospicua di crediti deteriorati con la partecipazione di diversi soggetti a questo più un aumento di capitale di 5 miliardi e quello che conta è che dopo 6 mesi di tonitruante richieste di intervento necessario dello Stato tanto su una parte quanto sull'altra, il risultato invece è opposto, si fa tutto con procedure di mercato e vedremo questo cosa vuol dire per il futuro del dibattito italiano. Quindi su questo chiamateci, dateci la vostra impressione sia sulla frenata dell'economia e i dati dell'occupazione che anch'essi però sono meno peggio secondo me di quanto si potesse immaginare, perché la frenata che era molto forte all'inizio dell'anno rispetto all'anno precedente dovuto al venir meno della decontribuzione inizia a venir meno come effetto, quindi, e c'è anche una cosa che a me piace, vedremo, è il ritorno dopo un anno e mezzo in cui diminuivano dei lavoratori indipendenti. Chiamateci su questo, sulle banche, su MPS. Arrivo anche a dire, visto la coda di lettere e telefonate che abbiamo ricevuto su quanti di voi hanno ricevuto il canone in bolletta e non avrebbero dovuto pagarlo, di, se volete telefonarci e continuare a scriverci, perché ci torneremo sopra, questa è una vicenda, visto che lo Stato non ci ha ancora dato il modulo formale per l'impugnativa, è una vicenda che noi come servizio pubblico, parlo a titolo personale, vogliamo tenere aperta, perché dobbiamo incalzare lo Stato in questo nel corso di quest'estate per dirci come si fa a fare l'impugnativa, perché altrimenti significa solo che deve pagare anche chi non deve e poi si vede l'anno prossimo e non è esattamente un buon esempio. Oltre a questo, cari compari, in settimana che cosa vi ha colpito, Mario? No, ma mi hai spiazzato, perché io volevo proprio parlare di questa cosa della mancanza della procedura formalizzata per diciamo il canone RAI non dovuto. Però aggiungo proprio una cosa en passant, poi lascio a Carlo Alberto. Io vorrei chiedere, dottoressa Orlandi, lei che è così, come dire, brava, loquace, come dire, vede, prevede, stravede, eccetera. Ma diciamo, all'interno di una procedura codificata, lei è bravissima a narrarci come avvengono le procedure codificate dell'Agenzia delle Entrate, ma proprio, diciamo, il canone non dovuto, la restituzione del canone non dovuto non ci stava in coda a questa procedura codificata? Cioè, cos'è? Colpa? Dolo? Che cosa potrà mai essere? Cioè, questo è il punto, anche perché, lo dico proprio anche nell'interesse della dottoressa Orlandi, dopodiché il Presidente del Consiglio si irrita e manda, diciamo, i suoi giornalisti di riferimento a scrivere commenti dove si dice: che stranezza questi compensi della RAI che sono usciti proprio mentre arrivano nelle bollette la prima metà del canone RAI, sarà mica un gombloddo. Per cui, dottoressa Orlandi, noi ci affidiamo a lei, cerchi di fare, oltre alle pentole, anche i coperchi. Ieri ci è capitato di ricordare questo argomento, che tutti gli atti formali dallo Stato in relazione ai tempi dovuti tra legge di stabilità e atti esecutivi disciplinanti il pagamento sono tutti avvenuti in violazione dei termini temporali previsti da quell'inutile legge stracciata e calpestata dallo Stato che si chiama Statuto dei Contribuenti. In nessun caso, in nessun passaggio sono stati rispettati i 60 giorni che sono dovuti ai contribuenti, e quindi in questo caso a tutti coloro che dovevano esaminare con chiarezza se rientravano o meno nei termini di legge per fare l'autodichiarazione di garanzia per autoesonerarsi dal canone, potessero davvero esaminare la propria posizione secondo i termini di legge. E a questo si aggiunge ora la mancanza di questa procedura formale. Carlo Alberto. Guarda, a me ha fatto riflettere la testata alla Zidane che Bolloré ha dato a Mediaset. Una cosa, questi raider finanziari, no, malati. Mi devi dire, leggendo il pezzo della Berlusconi che è uscito ieri, cosa pensi di quella formula, il capitalismo cannibalesco che ha usato? Diciamo, è l'indice di un certo avvelenamento dei rapporti, sì. Però diciamo, non l'ha negoziato Marina, ha negoziato il resto della truppa con Vivendi. Devo dire che è un segnale preoccupante, ma dal mio punto di vista interessante, perché vuol dire che il mercato dei media in Italia, dopo la grande sorpresa e dal mio punto di vista positiva dell'ingresso di Cairo su RCS, vede un ulteriore scossone che riguarderà anche, secondo me, nel medio termine anche Telecom Italia e il quadro generale delle comunicazioni. Quindi ne vediamo delle belle. Questa sgarbo francese non è un bel segnale di rispetto dei contratti, ma dal mio punto di vista non è una rottura, è una rinegoziazione ed è, se vuole, un mettere giù le carte a valle del di un chiarimento, non tanto del business plan di premium, ma diciamo un chiarimento del quadro generale dei media in Italia. Quindi mi aspetto fuochi d'artificio per l'estate. Io devo dirvi la verità, questa settimana sui movimenti delle grandi imprese italiane, secondo me, è stata molto ricca di cose significative, perché quella cosa, questo gelo, questo secchio di ghiaccio che è caduto nei rapporti tra Vivendi e Mediaset, in realtà avveniva contestualmente al giorno in cui Telecom Italia fa un salto in avanti, fa un accordo con Fastweb sulla banda larga, anche qui mettendosi alle spalle due anni ormai di polemiche, date tutto allo Stato, passate tutto a MetroWeb e così via, mentre MetroWeb resta è nell'Open Fiber. E questa è una cosa, secondo me, molto molto molto positiva. Seconda cosa positiva: ci sono anche italiani che in Francia poi mettono colpi a segni, perché Atlantia, che si prende Nizza, che è il terzo scalo aeroportuale francese con EDF, ma EDF in posizione di minoranza, è un'altra bella notizia. E poi, perdonate, lo so che non dovrei farlo perché scrivo anche per il Messaggero, ma l'ingegner Caltagirone, che improvvisamente e fulmineamente lascia bocca asciutta la Raggi 5 Stelle, che lo erano nel mirino, era evidente, e posso anche capirlo dal loro punto di vista, e ops, fa uno scambio azionario con Suez, entra in Suez e lascia i francesi a oltre il 22% in Acea, levandosi da Acea. Beh, uno di quei colpi di fronte ai quali, secondo me, a me ha ricordato Gastone Moschini in Amici Miei, quando descrive che cos'è il fulmine, l'intuizione, eccetera eccetera. Ma non lo dico per elogio, lo dico perché l'ho trovata una mossa particolarmente inaspettata, freddo, ma di quelle che dicono tante tante tante cose, per così dire. Dopodiché ma lo vedremo adesso, la ripresa tra un minuto. Questa settimana la Corte dei Conti si è svegliata, ragazzi, questo sì. Ne parliamo adesso, ma sì. È un po' tardiva, ma insomma ogni tanto i magistrati contabili dicono delle cose di un certo apprezzabile significatività. Sì, però... che qualcuno qui dentro dentro ha già anticipato da mesi e da anni che trattare la CDP come una forma di, come dire, di leva finanziaria del governo non è un bel modo di rispettare i risparmi degli italiani, ma esatto. Tant'è, mi sembra che il tema del rispetto del mercato dei risparmi sia esteso nella il giornata tema del di rispetto oggi. Del mercato, diciamo. In generale, insomma. Va bene, torniamo tra un minuto, intanto chiamateci su questi temi. Della belva. Ed eccoci tornati in studio con Pari Conti della Belva, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffei. E partiamo con la sigletta della nostra consueta rubrica d'inizio. Sto vivendo una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Allora, Mario, da cosa cominci? Ma non, guarda, non c'è moltissimo nel cortile di casa, per cui parliamo del dati Istat, diciamo, che sono usciti sulla stima di giugno. È un buon dato, bisogna dire, preso sia nel valore puntuale che nella media trimestrale, diciamo una media mobile a tre mesi, vabbè, 71.000 occupati in più. C'è da dire che questo dato, però ribadiamolo, il dato mensile di per sé non vuol dire nulla, è rumoroso, eccetera, eccetera, è fatto esclusivamente da lavoratori indipendenti, cioè autonomi, cioè 78.000. Però era quel segnale di cui parlavo prima, dopo un anno e mezzo di caduta. Sì, sì, per cui il che potrebbe anche essere una notizia interessante. Se guardiamo la media a tre mesi, si nota che c'è effettivamente una ripresa di occupazione e c'è anche un aumento del tasso di occupazione che nell'ultimo anno è aumentato dell'1%. Partiamo sempre da basi italiane, quindi abbastanza deprimenti. Però piuttosto che niente, meglio piuttosto. Io ieri, vabbè, non vorrei fare polemica inutile soprattutto rispetto a chi ha pronunciato sti concetti, però leggere sui social, diciamo, alcuni influencer molto vicini a Palazzo Chigi dire e pare che dia fastidio che questo Jobs Act funzioni, quando stiamo parlando di una ripresa degli impieghi autonomi su base mensile, vuol dire non avere capito granché, diciamo. Poi io capisco che voi siate un po' come dei cani di Pavlov e quindi dovete dire che tutto funziona anche quando il sole sorge, è stato il Jobs Act. Però, e poi ricordiamoci una cosa, tutti gli organismi di ricerca internazionali, domestici, eccetera, indipendenti o presunti tali, stanno rivedendo al ribasso le stime di crescita economica. Quindi resta la famosa regola del pollice che stiamo cercando di martellarvi da due anni. Se c'è un rallentamento del PIL, scordatevi che l'occupazione cresca di molto, perché in quel caso vorrebbe dire che la produttività crolla. Poi ieri è uscita la prima stima, quindi prima di tre, e quindi necessariamente incompleta, incompiuta, approssimativa del PIL degli Stati Uniti, un annualizzato di 1,2% che è nettamente inferiore alle attese, che mostra tra l'altro una crescita del primo semestre negli Stati Uniti molto debole, dell'ordine dell'1% annualizzato, il che non è particolarmente esaltante. Però se vogliamo vedere, allora, il consumatore statunitense è sempre in ottima forma, in ottima salute, gli investimenti assai meno, il commercio estero assai meno, perché comunque c'è una sorta di gelata nell'interscambio globale, e questa è una cosa che ovviamente preoccupa tutti, però un dato positivo è che c'è un continuo decumulo di scorte negli Stati Uniti, che non si deve leggere negativamente, non si deve mai leggere negativamente, perché prima o poi la produzione, quando le scorte saranno sufficientemente diminuite, la produzione riprende e quindi la congiuntura si stabilizza. Ciò detto, continuo a non voler essere nei panni della Fed, della Yellen, perché a furia di chiamare aumenti dei tassi e immediatamente pochi giorni o poche ore dopo, come dire, avere la congiuntura che ti manda dei messaggi che vanno esattamente in direzione opposta, non è il massimo della vita. Però diciamo che è una sorta di volo a vista anche assai poco strumentale. Però ripeto, attenzione all'evoluzione della Brexit, perché diciamo gli amici britannici sono ovviamente in altissimo mare per quanto riguarda le procedure di uscita e quant'altro, e nel frattempo il sentiment dei consumatori e delle imprese è diventato piuttosto cupo, e prima si parte col sentiment cupo e dopodiché arriva la gelata sull'attività economica. Poi, come dire, possiamo anche tacere del fatto che se succede qualcosa in termini di Brexit, l'Italia sarà la prima ad essere colpita, manco fosse un Italexit, però questo fa parte della nostra dotazione retorica e ce la facciamo bastare. Io direi che per quanto riguarda questo sguardo congiunturale abbastanza rapido, non ci sarebbe da segnalare o da aggiungere altro, no, Oscar. Ci aggiungo solo il dato dell'Eurozona. Ieri sono uscite alcune stime, per esempio sul studio di Unicredit, e per quello che può valere però è un dato su cui riflettere. È un dato su cui riflettere perché l'Eurozona rallenta molto, cioè passerebbe nel secondo trimestre a un più 0,3 rispetto a più 0,6 del trimestre precedente, con una Francia a crescita zero, per capirci. E al contrario la Spagna, che forse va alla terza sezione anticipata, che invece dopo un più 0,8 al primo trimestre è a più 0,7 nel secondo trimestre. C'è qualcuno che ha un telefonino acceso, bisogna vedere di silenziarlo ovviamente. Quindi da questo punto di vista si conferma quello che dice Mario, i segnali sono quelli di un rallentamento, quindi questo significa che quest'anno per l'Italia altro che più 1,2, più 1,3, altro che più 0,8. Se va bene va come l'anno scorso, ma è più probabile sempre nel tempo che sia qualche decimale in meno dell'anno scorso. Attenzione, perché quest'anno abbiamo 2 giorni lavorativi in meno, esatto. E se tanto mi dà tanto, visto che l'anno scorso abbiamo avuto la disputa teologica, in particolare il sottoscritto col dottor Basso, su cosa calcolare sulla fine del PIL di fine anno, se è corretto avere i giorni lavorati o meno, quest'anno a fine anno abbiamo il discorso uguale e opposto, per cui vediamo. Tra l'altro io l'anno poi, se riprendiamo dopo l'estate, io vi propongo di istituire un premio trimestrale ai miglior comunicatori, ai più, come devo dire, ai più attivi comunicatori, sì, istituzionali, sì, italiani, sì, perché sì, sì, tra Basso, quelli di alcune autorità di mercato, sta arrivando anche Banca, sì, d'Italia, sì, anche Banca d'Italia, anche ieri Banca sera d'Italia, si è ieri messa... è stato un trionfo, no, una volta... non mi toccate male Paolo. Letta, accidentaccio, ecco. Però Roberto Basso ha inaugurato, che è appunto il portavoce del MEF, ha inaugurato una via molto iperinterventista, perché di solito il portavoce del MEF aveva un ruolo istituzionale di interlocuzione, e invece siamo a un ruolo attivo, siamo a un ruolo molto tra virgolette politico anche nella lettura dei dati, nel proporre ai giornalisti il criterio giusto, nel dare i voti, i giudizi, e comunque è una cosa significativa da sottolineare. Però c'è da dire che lui twitta a titolo personale. Va bene, questo lo fa. Questo è il famoso disclaimer, cioè, per cui si dice che uno è incinta, ma solo un pochino. Incinta Roberto Basso. Aia, ma Roberto, forse è il caso. Ma avercene, dai, di persone che accettano il dialogo un po' con un filo di ironia. Così, allora, dai, ragazzi, entriamo nel mare magnum delle questioni poste da risultati delle 44 pagine del rapporto dell'EBA sugli stress test europei. Erano delle simulazioni di come rispondono le banche in caso di andamenti molto negativi. C'è chi contesta radicalmente queste metodologie, la loro opportunità, il fatto che siano fatte in maniera statica. Su questo trovate la testa di tutti, MF e Messaggero sono sicuramente i più tosti nel criticare. C'è chi invece rappresenta in un certo modo il risultato del test di ieri, cioè per esempio La Stampa, titolo onestissimo secondo me, MPS banca meno solida d'Europa. Repubblica, MPS bocciata ma ok al piano per risanarla. C'è chi fa una scelta diversa, MPS salva, banche italiane ok, scrive il Messaggero, che coglie uno dei punti per così dire di questa cosa. Io mi limito a leggervi solo una cosa prima di presentare gli ospiti e di lasciare campo libero ai miei compari, perché io do atto, i miei preferiti oggi sono Alessandro Barbera alla Stampa, Fernando Giuliano su Repubblica. Perché per esempio Alessandro Barbera in una frasetta mette giù l'esame comparato delle banche dei diversi paesi dell'Eurozona che erano esaminate sul risultato complessivo che hanno avuto, e quindi il loro grado di tenuta patrimoniale complessiva, e quindi come livello aggregato di patrimonio delle grandi banche italiane, che sarebbe del 7,7%, e se lo paragoniamo a quello degli altri paesi esaminati è peggio di quanto farebbero le britanniche, che sono 8,5, anche se c'è un paio di britanniche messe un po' così cos'ha, peggio di quelle spagnole che fa 8,6, peggissimo, se mi consentite lo stravolgimento italiano, di quelle tedesche che fa il 9,5 e francesi che fa 9,7, peggio della media delle 51 banche rilevate che fa 9,4, meglio però degli irlandesi che fanno 7,5 e ne hanno due messe malino, a dire la verità, e degli austriaci che sono a 7,3. Ecco, questo esame ponderato per sistemi nazionali, secondo me, è una buona sintesi per farvi capire, per così dire. Sì, però dobbiamo dire che c'è il peso di questo outlier che è MPS, che insomma trascina in basso la media italiana. Spiega outlier. Sì, cioè un valore statistico completamente fuori dalla distribuzione normale. Abbiamo visto che insomma MPS ha avuto un delta rispetto ai punto di partenza che è estremo, infatti è andato addirittura in negativo nello scenario avverso. E io devo dirti invece, Oscar, scusami, che sono estremamente rasserenato oggi. Non ci ho anche un po' di stress, perché devo dire che, a parte il caso di MPS, che non è una novità, non dovevamo aspettare gli stress test, forse dovevamo intervenire molti mesi fa, qualche annetto fa. Il resto delle banche italiane, devo dire, mi ha sorpreso positivamente, ma nettamente, e quindi il giudizio che devo dare oggi è, signori, posso dire che stavolta effettivamente il problema sistemico delle banche italiane è, per numeri, superato. E questa è una buona notizia, perché finalmente ogni terrorismo del tipo "ma se facciamo il bail-in di qualche banca va a catafascio il sistema bancario italiano" è smentito nei numeri. Effettivamente le quattro banche più importanti d'Italia hanno uno scenario in grado di reggere anche numeri molto avversi nel medio termine. Questa è veramente una buona notizia. C'è ovviamente una specifica su Unicredit che segnala qualche criticità, ma negli stress test ha fatto meglio della media degli altri, fammelo dire. Partiva da un valore più basso, ma ha fatto meglio degli altri. Quindi io posso fare una volta l'istituzionale, mezzo renziano, però sono numeri. No, i numeri sono che, caso MPS a parte, ed è un caso importante e critico, va discusso, il resto del sistema italiano, dice questo paese, ce la sta facendo dal punto di vista bancario. Però, allora, io posso dire due cose molto rapidamente. La prima, che bisogna, diciamo, fare i complimenti a Intesa San Paolo, ovviamente, perché sono numeri davvero eccellenti, ma soprattutto a Banco Popolare, che si è trovato in uno scenario avverso con un Common Equity Tier 1 del 9%, che tuttavia non considerava la ricapitalizzazione che c'è stata settimana dietro. Quindi, con buona pace di quelli che dicono che noi siamo solamente che critichiamo e siamo demolitori, noi facciamo anche i complimenti nello specifico a queste due banche italiane. Chapeau, perché ci hanno sorpreso positivamente, ma non solo noi, il mercato, su Banco Popolare le proiezioni erano molto critiche, devo dire che ha sorpreso tutti. Esatto. UBI se l'è cavata più che dignitosamente, come peraltro erano le attese, quindi il quartetto delle banche italiane, ma anche Unicredito. Signori, ci si aspettava Unicredito finisse veramente in condizioni critiche. Devo dire che l'impatto è stato ragionevolmente migliore delle attese. Ciò detto, Unicredit sa che dovrà fare un bel aumento di capitale, mi pare capire, un bel esercizio sul capitale, come lo hanno definito. Già ieri sera la banca ha emesso un comunicato dicendo che lavoreranno con l'organismo di sorveglianza. Quindi la strada non è breve né diciamo piana. Non bisogna dimenticare che questo è un paese che ha un tasso di crescita che resta veramente debole. In un contesto di tassi negativi, la redditività delle banche è ferocemente, come dire, minata. Perché vogliamo dire che in effetti ciò che sta penalizzando le banche italiane è lo scenario di redditività, perché abbiamo un paese che cresce poco. E questo quindi, ne parliamo dopo le 11. Ne parliamo dopo, perché noi abbiamo sempre parlato in questi anni dell'aspetto patrimoniale, dei crediti deteriorati. Ma della redditività devo dire, è la base di tutto. La novità degli stress test è l'enfasi che è corretto mettere, ne parleremo oggi, sul fatto che avanti così poche banche possono reggere uno scenario di questo genere qui, non perché hanno crediti deteriorati, ma semplicemente che non hanno redditività operativa. Certo. In sintesi estrema, le mie tre pillole prima del minuto di pausa e poi andiamo agli ospiti. Primo, sconfessata totalmente la linea di 6 mesi richiesta, non capisco perché a questo punto, dalle autorità italiane, dai media italiani, molti media italiani, sul fatto se non entra lo Stato sia per smaltire i crediti deteriorati sia per le ricapitalizzazioni, allora significa che ce l'avete con noi e volete una crisi sistemica. I risultati dicono di no, e la doppia manovra varata ieri da Siena è fatta secondo criteri di mercato e non di Stato. Mi dispiace, gravissimo errore delle autorità italiane. Okay, è chiaro questo, gravissimo. Abbiamo attirato in questo modo, seconda considerazione, di nuovo tutti i best del mercato sul nostro sistema, come se fosse nel 2011 per colpa del debito pubblico. Così lo abbiamo fatto, invocando lo Stato a manetta per smaltire i crediti deteriorati e per ricapitalizzare le banche. Non era vero, ma l'effetto c'è stato. E terza considerazione, viva Intesa, anche perché nel frattempo, proprio per effetto di questi primi due punti, ha visto smarrire, ha visto volatilizzarsi in borsa il suo premio al minor rischio che derivava dal fatto di essere la miglior banca italiana. Quindi ci sono dei prezzi che alle banche migliori italiane gli errori dei regolatori italiani fanno pagare molto amaramente, e uno di questi, lo vedremo anche, riguarda Atlante e così via. Quindi speriamo davvero di esserci messo alle spalle questi sei mesi che ieri in sintesi ho detto la doppia manovra va a tenere in consiglio di Siena e come aver fatto il giro del mondo in 80 sbornie, non in 80 giorni. Tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Eccoci qua, tornati in diretta con i compagni dei Conti La Belva, oltre Oscar Giannino, Mario Seminerio, Carlo Alberto Carnevale Maffè. E nel frattempo ci ha raggiunto in studio una delle voci più taglienti a cui facciamo spesso ricorso, per così dire, un po' fuori dal coro ma numeri alla mano, appunto, cioè Gianluca Codagnone, Managing Director di Fidentis. Buongiorno a tutti. No, l'ha detto in italiano. Ma noi portiamo sempre qualche salmone così per sfamare va l'orso. Bene, si va sa bene. Che... E poi Silvia, io dico Merler, poi stamattina c'è cioè, chi mi ha fatto notare, ma no, è Trentina, bisogna dire Merler. Come bisogna dirlo, Silvia, il tuo cognome? Va bene Merler, va bene Merler. Allora Silvia Merler scrive degli illuminanti, perché non intrisi di autarchia nazionalista, ma è una di quelle che ci tiene ancora all'Europa, sia pure in tempi di questi difficili, e quindi collabora con il think tank Bruegel di Bruxelles. Io vi invito sempre a guardare il suo sito, perché ci sono pezzi di grande caratura. Io comincerei proprio da te, Silvia. Ci dai il tuo giudizio in pillole su stress test? Ha ragione a torto secondo te chi li critica frontalmente? Gli esami sono andati meglio o peggio di quanto ti aspettassi? Ma naturalmente il discorso stress test è sempre aperto a una serie di valutazioni molto variegate di tutti i tipi, perché chiaramente non è una scienza esatta, quindi non esiste un vero e un falso necessariamente. Dal mio punto di vista sono d'accordo con chi diceva prima che effettivamente le banche italiane sono andate abbastanza bene rispetto a quanto ci si aspettasse, con l'ovvia ma abbastanza attesa eccezione di Monte Paschi, chiaramente. E mi pare una buona cosa questa. Sì, quindi sei d'accordo, sono Carlo Alberto, che i commenti su i rischi del bail-in che mette in ginocchio. Scusa, cioè, se le nostre banche reggono a uno scenario avverso, tosto, magari non completo, possiamo dire, però no, tosto. È sicuramente un dettaglio importantissimo quello, che il discorso è appunto per 4 su 5 delle banche testate uno scenario molto tosto risulterebbe in realtà in una shortfall, quindi una diminuzione del rapporto di capitale che è inferiore alla media europea, quindi hanno sicuramente fatto molto bene, e questo diminuisce la logica di quel discorso appunto sul rischio sistemico che abbiamo sentito nei mesi scorsi, che chiaramente complicherebbe molto dal punto di vista politico la gestione di Monte dei Paschi nel caso l'operazione privata dovesse avere dei problemi. Però vogliamo legittimare questi stress test che nel loro limite, vogliamo dire che sono utili, anche se sono comunicati male, anche se forse sono incompleti, che comunque meglio averli che affidarsi ai giudizi politici dei governanti, specialmente quelli il nostro, diciamo, caro collusi. Amico Federico Fubini, se hai letto il suo pezzo di scuola sera, non la pensa così, caro Alberto. Beh, io chiedo a Silvia cosa ne pensa. No, io la penso così. Io chiaramente penso che sia meglio averli, e che avere un giudizio terzo sovranazionale, soprattutto nel caso di un paese come il nostro, in cui abbiamo visto dal punto di vista della supervisione nazionale degli errori in passato, anche se vogliamo considerevoli, è di fondamentale importanza. Ricordo che sono 20.000 data point che saranno magari incompleti, ma sono tanti, ok? Certo. Per valutare il profilo di rischio. E che quest'anno gli stress test hanno incluso anche il rischio di condotta, quindi hanno aggiunto ulteriori elementi, non solo, ma hanno pesato meglio, secondo me, i rischi di tipo reddituale, che invece nel 2014 non erano così chiari. Certo. Quindi, siccome sono ancora più completi di 2 anni fa, magari sono stati, come dire, gestiti in maniera un pochino migliore, non è stata fatta bocciatura o promozione, sono stati messi a disposizione dall'autorità che poi dovrà decidere gli interventi. Io ho trovato un miglioramento per, su questo. Per... Sì, quello è anche chiaramente perché adesso l'autorità di supervisione di riferimento è il supervisore unico, quindi la BCE, quindi gli stress dell'autorità bancaria europea hanno una funzione di informazione, ecco, più che una funzione di sanzione, discrimine, sanzione o bocciatura, promozione degli istituti vari, quindi chiaramente diventano un input per il processo di valutazione del supervisore. Per dare un'idea però a chi ci ascolta del panorama mediatico italiano, visto che è il primo giornale italiano al Corriere della Sera, leggo 2 frasi. L'unione bancaria è un ingranaggio squilibrato e micidiale. Visto dall'Italia, il modo in cui sono operati questi stress test è brutale per forzare un paese a fare pulizia. Nel caso Montepaschi è stato deliberatamente innescato dall'Europa il rischio di una crisi sistemica. Ma era capricciante sta cosa. Io invocherei l'ONU, Amnesty International, un caso di pulizia etnica ai danni delle banche italiane. Questo per dare l'idea che i giudizi sono contrastanti, come vedete. C'è chi invece pensa che sia completamente deleterio da questo punto di vista. Gianluca, che dici tu, gli stress test in generale? Allora, intanto saluta Silvia, che non sapevo fosse. Ciao. Ciao. Allora, io... adesso mi caccerete dalla radio seduta stante, ma noi usiamo i data points degli stress test, che sono tanti, per incrociarli con i nostri, facendo ricerca. Devo dire che però che alcune delle assunzioni degli stress test sono, diciamo, abbastanza rigettabili, nel senso che non si può contemporaneamente stimare una caduta del PIL del 6% e una espansione degli spread sui titoli sovrani di 100 basis points. Se il PIL cade del 6%, i titoli, i rendimenti scendono e nel caso italiano gli spread non si amplierebbero di 100 basis point. O vanno a 700 basis point o vanno a zero. Cioè, secondo me ci sono alcune delle in assenza di azione dell'ECB sul QE. Se no, vanno dove decide l'ECB, gli spread. Perché vanno dove decidono loro. Per questo ho 700 o zero. E quindi, cioè, francamente è ovvio che ci sono delle cose che sono, diciamo, siccome si applicano su tutti nella stessa maniera, ci sono chiaramente delle riduzioni della complessità. Però gli analisti possono prendere quei dataset e elaborarli a loro piacimento. Mi sembra che questo elemento di open data è importante. Infatti, noi come Silvia e altri centri di ricerca, noi vabbè facciamo ricerca e la distribuiamo agli investitori, loro la fanno, il Bruegel la fa per tutti. Usiamo i data point, dopodiché sulle conclusioni francamente ognuno poi prende dopodiché... Ma sei d'accordo anche tu che i risultati per le 5 banche italiane sono nella media, tranne ovviamente l'eccezione fuori dalla distribuzione di Siena migliore di elettricità? Sì, se poi bisogna, c'è anche una qualità da guardare, noi abbiamo iniziato a guardarla ieri sera, anche stamattina prima di venire qua. Diciamo che a occhio l'Unicredito esce abbastanza tirato, secondo me. Però è una cosa abbastanza nota anche questa, non è che proprio non sia apprezzato. Infatti. Il Monte Paschi, l'unica cosa che noto è che dei 1400 basis point che perde nello scenario avverso, più della metà sono praticamente cancellazioni dell'interest margin, che viene dal fatto che quando gli NP, cioè quando i crediti non in sofferenza ma solo deteriorati o cosiddetti past due o unlikely to pay o deteriorati, diciamo non performing, incagliati. Sì. Noi dobbiamo fare sempre questa mappatura, sì, tipo la stella di Rosetta, esatto, tra il linguaggio di Gianluca e il resto del mondo. Metà di quello shortfall viene fuori dal fatto che quando decadono in sofferenza bisogna ristornare tutti gli interessi figurati che si sono messi negli anni prima. Quindi è un tema di redditività, la traduco in maniera semplice. Sì. Hanno stornato una redditività non dovuta non corretta in termini di imputazione. Quindi è un elemento di redditività e non solo patrimoniale. Sì, è ovvio che le banche, oggi come oggi, stanno tutte sotto, diciamo, due o tre forze che giocano contro, almeno le banche tradizionali. La prima è che le curve ormai le curve dei titoli di Stato partono tutte da tassi negativi. Quello che si diceva, esatto. E si espandono fino al 60% della curva a tassi negativi. Esatto. La seconda forza deriva dal fatto che c'è stato un repricing, un riprezzamento di tutto il passivo, nel senso che molte delle banche, segnatamente quelle non, diciamo, in good standing, o che non le banche migliori, dovranno riemettere bond o trovare un financing nel passivo che costa più di prima, mentre si è schiacciata la redditività dell'attivo, sempre per il fenomeno della curva. Sì, questo apre una forbice questo danneggia la redditività. Certo. E diciamo, dopodiché poi c'è tutto il tema che Carlo Alberto avrà già sviscerato sicuramente del fintech, quindi c'è dell'attacco al modello tradizionale della banca da parte di banche che hanno una struttura di costi completamente diversa perché non usano gli sportelli, eccetera, eccetera, eccetera. Sì. Dopodiché, per dire una parola, io sono d'accordo con Silvia, anche con tutti voi, che gli stress test è meglio averli che non averli. Oh, appunto. Perché ci danno una serie di data points che altrimenti altrimenti avrebbero accesso solo Fitch, Moody's e tutte le agenzie di rating, perché dall'esterno, con i bilanci, con le pubblicazioni ufficiali... Esatto. Quindi vogliamo dire che l'Unione Bancaria Europea invece è un grande esercizio di trasparenza, di convergenza, di disciplina. Ma io no. trovo una cosa bellissima per chi vuole capire il mondo. Sono gli eredi di Milosevic, esatto, questi dell'Unione Bancaria Europea. Poi allora, è imperfetta. Iniziamo ad entrare nel merito di quello che si è capito della doppia manovra varata ieri a Siena per gli NPL e per l'aumento di capitale. Allora, prima impressione di Silvia. Allora, chiaramente l'idea è, le regole europee prevedono che in caso di necessità di aumenti di capitale questi si coprano prima di tutto sul mercato, quindi da investitori privati, che è lo scopo di tutta questa manovra, che poi è volto a evitare l'eventuale necessità di imporre perdite a azionisti, obbligazionisti, subordinati o non, che verrebbe con la necessità di capitale pubblico. A me sembra un'operazione che comunque ha dei punti abbastanza in sospeso per il momento, nel senso che non è ovvia come... Giusto qualche piccolo dettaglio, Silvia. È un'operazione che comunque prevede un passaggio dal mercato per un aumento di capitale di 5 miliardi, che non è poco, che seppure garantito è comunque crucialmente legato al successo della dismissione di queste sofferenze, una cartolarizzazione la cui struttura è abbastanza delicata. Poi Gianluca sicuramente ha dettagli molto più freschi su questo, ma mi sembra comunque un'operazione che presenta dei rischi. Sì, anche perché adesso chiedo a Gianluca, l'aumento di capitale è garantito dal consorzio, non mi risulta. No. Quindi siamo esposti a un rischio di mercato. Il consorzio è rimasto di collocamento. Esatto. Sì, tra l'altro, se vogliamo proprio dire tutta, allora, l'operazione di base è un aumento di capitale di 5 miliardi di euro che servono, diciamo, li spacchiamo dove vanno a finire questi 5 miliardi. Vanno 1 miliardo a coprire le perdite che servono a marcare le sofferenze del Monte Paschi da 37 cents, che attualmente il valore di bilancio, a 33. Dopodiché queste sofferenze se ne escono dal bilancio di Monte Paschi e vanno in un veicolo per il quale verranno usati 1,6 miliardi dei 5 per ricapitalizzare il veicolo. Quindi 2,6 miliardi, diciamo, sono per l'operazione. Per il bubbone delle sofferenze. Dopodiché altri 2,2 miliardi, se non sbaglio, sì, 2,2 miliardi, sì, vengono usati per coprire gli altri crediti incagliati che rimangono nel bilancio. Che rimangono a Monte dei Paschi. E sono cautelativi. Sono 20 miliardi che in questo momento sono tra le due categorie di unlikely to pay past due, sono 20 miliardi, in questo momento hanno una riservazione di circa 6 miliardi, quindi sono in valore netto di bilancio di 14, e che verranno riservati fino a 8, quindi al 40% del book value, e quindi rimarranno nel Monte Paschi a 12 miliardi. Ora, l'aumento di capitale è condizionato, almeno questo in call ieri col management del Monte Paschi abbiamo capito, però ripeto, poi magari mi sbaglio io. C'era anche Corrado Passaro, mi sembra di no, vero? No. No, che peccato. Non fare battute! Noi siamo qua apposta! Non fare spettacolo! Non so, magari era collegato e non me l'ha detto, però... Allora, questa operazione è condizionata con delle condizioni, diciamo così, non potestative, che non dipendono dagli attori, fondamentalmente al fatto che le sofferenze escano dal bilancio del Monte Paschi a 33 cents, cioè che quel veicolo venga creato, sì, e spinoffato. E siccome però non si può spinoffarlo prima dell'aumento di capitale perché è coincidente, hanno ipotizzato un bridge loan di JP Morgan, esatto, prestito ponte, sì, esatto, prestito ponte per traduzione simultanea, mi sento la pagina 777 del radio video. Hanno ipotizzato un prestito ponte di JP Morgan per 6 miliardi sulle 9, che perché 9 miliardi è l'ammontare di tutto, diciamo, l'operazione sofferenze, che servirà ad aspettare di poter avere tutto il necessario processo di rating sul veicolo, perché ci saranno Fitch, Moody's e altre agenzie che dovranno decidere quanta parte di quel veicolo è, diciamo, è battezzata senior, esatto, quanta è junior, il tranching, la partizione, diciamo. Ora, ieri io in call ho chiesto: ma voi qui ipotizzate che il 65% di questa cosa qua viene definita senior, esatto, quindi su 30... quindi quella a meno rischio, tanto per chiarire, no? Sì, cioè, sì, due terzi, quella più sicura, diciamo, cioè su 33 cents a cui vendete sta roba al mercato, 21 sono senior, perché il 65% di 33 fa 21, quindi 21 siete strasicuri di incassarli, diciamo, entro 4-5 anni, perché quella è la durata di rimborso di un piano di un senior qualsiasi. Che il senior viene ammortizzato e rimborsato come un mutuo francese, ha priorità su tutti i pagamenti, sì, che quel veicolo riceverà. Certo. L'equity e gli altri non beccano una lira prima di aver rimborsato. No, esatto, sono a fondo, alla base. Anche il mezzanino. E l'equity tranche, tra l'altro, dovrebbe rimanere con gli attuali azionisti. Sì, sì, esatto. Cioè, verrebbe assegnata agli azionisti. Gliela spinoffano, sì, sì, come un dividendo straordinario. Esatto, come un'opportunità. Che però pagherà solo se le sofferenze ripagheranno il mezzanino e la tranche. Brava, esatto. È residuale. Nel lungo periodo, diciamo. Esatto. Allora, io ho chiesto, ma se succede che per esempio Fitch, Moody's e compagnia cantante decidono che la parte senior non è il 65% di questi 9 miliardi, ma è il 40%. Esatto. Che succede? E che t'hanno risposto? Si rompe il giocattolo? No, mi hanno detto che questo è solo un problema di costo, perché si espande la tranche mezzanina, cioè quella non secured. E io ho detto, benissimo, quindi ci mette il capitale. Quindi benissimo, le casse di previdenza dei professionisti metteranno altri soldi. Benissimo, siccome quella tranche nel progetto di questa cartolarizzazione vale 1,6 miliardi oggi, no? Se va tutto come dice il Monte Paschi, 6 miliardi sono il senior, 1,6 è la parte mezzanina e 1,6 è l'equity di questo veicolo. La parte che non è senior diventa mezzanina. Chi la paga? Bisognerà che ci sia Atlante 2, 3, 4. Esatto, esatto. Fermi su questo, sì, traffico torneo. I conti della Belva. Eccoci qui, tornate con il compare dei conti della Belva, e sono con noi Silvia Merler e Gianluca Codagnone. Abbiamo dato un primo esame, insomma, dei risultati degli stress test, meglio delle attese complessivamente delle banche italiane. Di Siena si sapeva, Unicredit un po' tirato, peggio alcuni, gli irlandesi e gli austriaci, che hanno problemi più seri di quanto si immaginasse. Ma detto questo, come avete sentito dall'esame della parte che riguarda gli NPL, come liberarsi degli NPL, come funziona il trashing delle cartolarizzazioni del valore netto rispetto al lordo, che sarà più o meno 27 miliardi che vale questa operazione, insomma le complicazioni e i tempi sono lunghe. Sì, la finisco veloce. Allora, facciamo finta che va tutto come dice il management del Monte Paschi. Facciamo finta di quello. Allora, ci sono 27 miliardi di crediti in sofferenza che passano dentro questo veicolo a un valore netto di 9 miliardi, cioè quindi passano a 33% del valore lordo. Che è completamente fuori mercato, vogliamo dire. Non parlo. Okay. No, come. Questa roba qua viene fatta sottoscrivere a degli operatori istituzionali per una grande parte di questi 9 miliardi, cioè diciamo 6 miliardi, che sono senior, a fronte dei quali vengono emessi delle obbligazioni senior. Per 1,6 miliardi dal fondo Atlante, che si sottoscrive una tranche cosiddetta mezzanina. E per 1,6 miliardi dagli attuali azionisti del Monte Paschi, pro che quota contribuiscono, sì, i 5 miliardi di aumento di capitale, 1,6 dei quali gli viene ridato indietro sotto forma di zuccherino di azioni di questo veicolo. Ora, vediamo un po' che cosa deve succedere per far guadagnare dei soldi. Allora, ipotizzando che coloro che prendono la parte di obbligazione senior chiedano un rendimento perché l'obbligazione senior ha la garanzia dello Stato, eccetera, eccetera, eccetera, diciamo del 2%. E ipotizzando che la tranche di Atlante mezzanina abbia un rendimento che Atlante chiede del 6%, perché è quello che ci hanno detto che Atlante chiederà, no? Hanno detto che Atlante c'è deve, nei loro documenti. Deve guadagnare il 6%. No, devono guadagnare il 6% su tutto il capitale, ammesso e non concesso che sì, guadagni il 6% sul resto. Bene, è da vedere. No, facciamo adesso, il 6%. Facciamo il 6%. E ipotizzando che questo veicolo qui, per gestire tutto questo monte sofferenze, dovrà assumere della gente, diciamo che è un veicolo dove... oppure fare un contratto con un provider esterno di servizi, diciamo che gestire dei veicoli così, inclusa la commissione di Atlante che è 0,23, più o meno dovrebbe essere intorno all'1,5%. Quindi sommando tutti questi costi che questo veicolo avrà, cioè di remunerazione di tutti quelli che lo finanziano, più il costo del service o delle persone che dovrebbero lavorare, si arriva a, diciamo, stimare in 4 anni quanti soldi bisogna recuperare dall'escussione dei crediti che sono stati conferiti. Esatto. Per andare, mandare tutti contenti, diciamo così, perlomeno rimborsare anche l'equity, no? Senza dare agli azionisti del veicolo un rendimento, ma solo rimborsarli. Allora, facendo dei calcoli rispetto anche a quello che ci ha detto il management del Monte Paschi ieri, su quanta parte di questi crediti sono assistiti da garanzia reale e quanta no, la cosiddetta differenza tra secured e unsecured, cioè assistiti da garanzia e non assistiti, cioè i crediti che hanno, che ne so, capannoni, allora, case. Ci sono dei crediti che hanno sotto delle garanzie reali, che possono essere degli immobili residenziali o commerciali, o delle garanzie di firma dell'imprenditore, cioè, questi sono i secured, cioè questa è la parte secured, che sono il 55% di quella massa di crediti che viene trasferito, dei 27 miliardi/9. Solo il 55. Solo il 55. Il 45% sono crediti, se abbiamo capito bene, non assistiti da garanzia reale, quindi sono crediti, tanto per spiegarlo, tipo le rate non pagate su un acquisto a rate di una macchina. E cosa dovrebbe avvenire per guadagnare o quantomeno pareggiare? Allora, guardando le transazioni che sono avvenute e diciamo i valori di recupero medi che ci sono state nella la parte, diciamo, non assistita da garanzia, è la più facile, nel senso che è quella dove ci sono più dati, certo. E si varia da dei prezzi di cessione tra operatori che sono, diciamo, 4 cents fino a un massimo di recupero di 20 cents. Cioè dal 4% al 20% del valore nominale. Allora, diciamo, applicando una percentuale, diciamo così, che abbiamo usato noi di 15 cents, cioè una percentuale medio-alta. Medio-alta, diciamo. Più alta che medio. Ti viene fuori quanto devi recuperare sugli altri crediti. Sui secured e sui garantiti. Sugli altri crediti per pagare il senior. Per arrivare al punto di pareggio. E quel numero è? E quel numero dopo 4 anni è 59,4. Però dopo... ed è un'impresa eroica, diciamo. Cioè, devi recuperare il 60% sul valore di immobile che magari è lì da alcuni anni, con il mercato immobiliare che c'è adesso, e tutto questo in 4 anni. Allora, questo però è un modello che abbiamo fatto noi. Adesso io sono sicuro che tutti quanti e dava l'idea a chi ci ascoltava che, insomma, le ipotesi sottostanti, come vedete, sono complicate, per così dire. E comunque noi torniamo dopo il giornale radio con i nostri ospiti. Altri se ne aggiungono. Fratelli d'Italia, l'Italia le vesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati in studio, i compari dei Conti della Belva, Oscar Giannino, Mario Seminerio, Carlo Alberto Carnevale. Ed è in studio insieme a noi il... una volta avrei detto il grande cane da guardia. Oggi, come vedete, è equilibratissimo. È un orsacchiotto, direi. No, un orsacchiotto non direi. Però abbiamo tentato di spiegarvi, nella parte che riguarda il meccanismo di cessione, cartolarizzazione, la transizione degli NPL cartolarizzati, che dovrà essere fatta ovviamente dalle agenzie di rating, i rate di ritorno immaginabili ai tempi per consentire a chi assume questi crediti deteriorati di poterci non perdere troppo, ecco, diciamo così, sono, appaiono un po' problematici rispetto alla media dei tempi italiani e rispetto anche alla valutazione sottostante al meccanismo che è stato deciso ieri. Quindi qualcosa può effettivamente andare un po' storto, giusto qualcosa, per così dire. Ora, parte di questo meccanismo, al di là del prestito ponte che JP Morgan, essendo Siena uno dei suoi maggiori clienti in Europa, fa apposta perché il tempo necessario riesca a determinare tutti, prima le preparazioni tecniche della cosa e poi secondo vedere che cosa si recupera davvero. Uno dei motivi per cui hanno litigato brutalmente, anche se i giornali non ve lo hanno raccontato, le fondazioni e quelli di Atlante con il tesoro, è esattamente il ruolo di Jamie Dimon e di JP Morgan, che senza il quale questa operazione avrebbe avuto meno un pezzo fondamentale, che alle fondazioni non è piaciuta, non piace la maxi commissione data a JP Morgan senza avvisare nessuno, mentre le fondazioni stentano per trovare nuovi finanziatori ad Atlante 2. Atlante 2, come avete sentito, si immagina che sia quello che rileva la parte mezzanina dell'operazione NPL, e Mario con una clausola per la quale può... Io ho visto che è stato costruito, adesso parlo anch'io in inglese così la gente incazza qui, è stato inserito un equity kicker, cioè praticamente Atlante 2 sottoscrive la porzione mezzanina della salsiccia e in cambio ottiene dei warrant sull'aumento di capitale di Monte Paschi, in maniera tale da poter raggiungere su base ex aumento, quindi sul totale delle azioni, sia quelle vecchie che quelle nuove, fino al 7% del capitale. Esatto. Questa misura protegge, in astratto, in teoria, poi sono certo che Gianluca avrà da opinare, ma questa misura protegge in astratto, in teoria, chi possiede la tranche mezzanina, ma nello specifico Atlante 2, cioè i suoi conferenti di capitale, cioè tra gli altri le casse dei professionisti. Perché se Montepaschi dovesse, dopo questa operazione, tornare a fare robusti utili e la quotazione di Montepaschi dovesse crescere in maniera confortante, Atlante 2 potrebbe convertire i suoi warrant ad un prezzo estremamente vantaggioso in azioni del Monte Paschi e portare a casa un utile aggiuntivo. Ecco, questo è, diciamo, il cuscinetto molto teorico che Atlante 2 e tutti quelli che hanno messo i soldi in Atlante 2, tra cui le casse dei professionisti, perché questo il tema è caldo, ieri abbiamo preso che Generali ha messo anche 200 milioni, non i 400 richiesti, poste vita, eccetera. Certamente, allora, io, ripeto, parlo soprattutto delle casse dei professionisti perché sono debuttanti in questo tipo di investimento, c'è un'anomalia, rischia di essere non remunerativo, rischiano di farsi male in astratto. Tutti gli investitori istituzionali che mettono soldi in Atlante 2 sono maggiorenni e vaccinati, a differenza delle casse dei professionisti, per cui di loro non parlo. Però questi warrant che sono stati, che verranno emessi a favore di Atlante 2, sono in astratto protettivi, ripeto, sempre partendo dalla premessa e dall'ipotesi che post questa operazione Monte dei Paschi torni a guadagnare soldi veri. Quindi l'operazione in quanto tale, se ne parlava anche prima fuori onda con Carlo Alberto, l'architettura dell'operazione sicuramente mostra la sapienza di chi l'ha costruita, però devono quadrare i numeri. Devono quadrare i numeri in prima battuta, quello che diceva Gianluca, il tranching, perché se non quadra la porzionatura, il partizionamento della salsiccia, sono veramente dolori per tutti. Ma sì, però la complessità della cosa è positiva, non c'è lo stato di mezzo. Ok, diciamo questo rispetto a chi per sei mesi ha chiesto il contrario, è positiva. Però nella complessità di questa faccenda, in ogni motore le parti che lo compongono hanno determinano un aumento esponenziale, per una banale questione di attrito fisico tra le parti, di incidente del motore. Questo è quello, diciamo, che succede. Diciamo che l'operazione è condizionata ad alcuni eventi che devono succedere, no? E il primo evento che deve succedere è che questo veicolo venga formato, che ci sia, diciamo, un giudizio delle società di rating tale da permettere di venderlo con una parte, diciamo, senior così alta. Esatto. e che a quel punto questo incoraggi coloro che dovranno mettere 5 miliardi nel Monte Paschi a dedicarne una parte al finanziamento della parte, diciamo, di azionaria, cioè diciamo di capitale di quel veicolo, no? Per cui diciamo l'operazione è stata architettata da un certo punto di vista tecnico bene. Bene. Il problema è che poi devono, come diceva Carlo, devono anche combaciare tanti di quelle tessere. Sì, soprattutto cioè c'è un banale giudizio di rischio rendimento che va fatto. Però abbiamo fatto un passo in avanti, signori, perché abbiamo messo sul tappeto il fatto che la BRRD è incardinata nell'ordinamento, che i numeri si fanno col mercato e il mercato giudicherà e gli stress test si danno elementi per giudicare. Io esco da stamattina con molta più ragione, però un altro, oltre allo scontro fondazioni Costamagna di CDP per il ruolo di JP Morgan, un altro grande non detto cioè da parte dei media italiani su questa vicenda, e cioè il confronto tra virgolette maschio, vogliamo dire così, non voglio dire aspro, perché poi a molti di noi è arrivato da fonti assolutamente attendibili, non abbiamo i dettagli, tra il presidente del consiglio e il ministro dell'economia Padoan, su immagini di rischio e la complessità di questa operazione. Con il presidente del consiglio dice: per Carlo, sì, ho capito, non mi far perdere la testa per un'ora a spiegarmi tutti i dettagli. Capisco anche solo perché sennò ti mandiamo Gianluca Codaglione e ti asfaltiamo. Capisco solo che è molto complicata. E per Carlo, se salta un pezzo e io mi ritrovo sotto referendum, no, ma diciamo, scusami se ti interrompo, cosa devo fare a quel punto? Oscar, si torna a dire stato e faccio un decreto. Pier Carlo, ma non ci posso mettere la faccia, ma qui è una cosa un po' troppo rischiosa. No, però questo Carlo, è quello che Carlo dice, la BRD con questo schema, siccome interviene diciamo così un aumento di capitale, manco la si vede, nel senso se viene sottoscritto, esatto. Se non dovesse venire sottoscritto, se questa operazione va così, non c'era bisogno di usare né uno strumento di pre-risoluzione né la risoluzione, la BRD non la vediamo neanche passare dal via, esatto. Nel senso che Monte Paschi denuncia una perdita, reintegra il capitale con un aumento di capitale, poi dopo lo spaccato dell'aumento di capitale l'abbiamo spiegato, però finito, cioè un'operazione di aumento di capitale come un'altra, che dipenderà, il cui successo dipenderà dal giudizio che coloro che devono sottoscrivere quell'aumento di capitale daranno dell'operazione. Diciamo una cosa anche un po' di fantafinanza, ma non troppo. Questo aumento di capitale potrebbe essere interamente devoluto ad accantonamenti a rettifiche su perdite senza far entrare in campo Atlante 2. Ah, quello è lo certo. Schema che avevamo usato sia io che Silvia, se ancora in linea. Certo. No, è andata. Che era quello di equitizzare, cioè di trasformare di prendere una mega perdita che portasse il bilancio a, diciamo, a quello che noi e Silvia, il Brugger e altri ricercatori hanno stimato essere, diciamo, un valore accettabile per gli attivi e i passivi del Monte Paschi, sì. E poi di usare i junior bonds, quelli che sono i famosi, subordinati, esattamente, e anche quello che ho indicato io in uno dei miei post questa settimana, che però non è lo schema però ieri sera quando ho letto i primi lanci di agenzia ho fatto un tweet dicendo: vai che forse Atlante 2 o non nasce del tutto o nasce più piccolo, perché pensavo, mi era venuto questo flash, che questi 5 miliardi, come si sta dicendo ora, potessero essere utilizzati per prendersi la perdita e abbattere il valore delle sofferenze. No. Però se il tranching non dovesse andare andare come però previsto, c'è una cosa che è un po' sottovalutata, che noi abbiamo anche scritto, cioè tecnicamente qualsiasi perdita prenda il Monte Paschi da 1 a 3 a 5, diciamo, che prevede un reintegro del capitale, va riofferta ex codice civile agli azionisti. Certo. Per cui questo schema, volente o nolente, in questo modo o in un altro, con un'offerta agli attuali azionisti del Monte Paschi, andava fatto ex lege. Hai assolutamente ragione. Cioè, diritto d'opzione. Questa roba andava organizzata comunque, dopodiché poi vedremo se va, se non va, eccetera, eccetera. Cioè, se non va, c'è poi una biforcazione di eventi per cui si deve decidere di farlo in un altro modo. Certo. Fammi citare la BRD per dire questo tecnicismo su Monte Paschi, che è giustificato dalla dimensione del problema, oggettivamente invece lascia spazio alla BRD per tutte le altre banche medio-piccole, sulle quali a questo punto, non essendoci rischio sistemico e non essendoci la necessità e mancando l'accesso al capitale, questo percorso diventa indisponibile. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Allora, cari compari qui presenti insieme al nostro carissimo Gianluca Codagnone, noi abbiamo dimenticato però di ricordare che noi siamo stati tra i pochi, ognuno separatamente, nelle sue attività di comunicazione professionale eccetera eccetera, sui social e così via, a sottolineare con durezza che la richiesta perentoria a parte del MEF alle casse previdenziali italiane per finanziare Tranche 2 aveva dei tratti che non ci piacevano per niente. Primo, perché le casse previdenziali, insomma, sono tenute a un profilo di prudenza nell'impiego delle proprie risorse, sono tenuti per obbligo, per così dire, e che questo, come avete sentito fino a questo momento, rispetto all'alea che c'è sulla redditività del rilevare NPL prezzati in questo modo, vedremo come transizzati eccetera eccetera, e stiamo parlando di anche una banca, ricordo, anche una se banca. Non tecnico capisce che ci sono dei problemi, capite? Poi perché, ripeto, questo è un governo che 2 anni fa ha già alzato brutalmente le tasse alle casse di previdenza, quindi è un po', e si presenta dicendo: se volete che ve le abbassi, datemi accesso al vostro patrimonio. Io, che sono naturalmente senza titoli e senza futuro, con un incerto passato, ho scritto: è una maniera da banditi di strada. Questa naturalmente è la mia opinione e la ribadisco, perché è una maniera da banditi di strada. Però, siccome poi l'associazione delle casse immediatamente ha detto sì, e poi abbiamo visto i dottori commercialisti e altri alzare la testa e dire no ragazzi, non se ne parla neanche, qualche piccolo gioco lo abbiamo svolto in questa comunicazione pubblica. Abbastanza. Perché siamo stati pochissimi a muovere queste obiezioni, sì, sì. Quindi non ci diamo dei meriti. Posso, Oscar? Però Oscar, l'abbiamo fatto, cari professionisti in ascolto, esatto. Per voi. Professionisti, per medici, però, notai, avvocati. Esatto. Il futuro della vostra pensione è a rischio e va presidiato. E soprattutto, però, diciamola tutta, non scambiate il vostro futuro pensionistico con 4 perline, ma lo diciamo da utenti dei servizi, esatto. Noi non accetteremo, non perché difendiamo i professionisti che si difendono da soli, certo. Ma non accetteremo che eventualmente il governo proponga alle associazioni dei professionisti di chiudere entrambi gli occhi su eventuali liberalizzazioni. Perché questo è un punto da sottolineare. Questa è una parte non detta del trade-off. Prima che qualcuno ci dica che noi siamo sdraiati e asserviti ai professionisti, bravo. Noi diciamo applauso. Questo: noi ai professionisti cerchiamo di dire attenzione, cari professionisti che nella vita giustamente fate altro, attenzione alle vostre future pensioni. Però sappiate che per quanto ci riguarda, noi condanneremo ogni doubt des che preveda limiti alla concorrenza nelle libere professioni, certo. Cioè nelle liberalizzazioni. Che è un altro modo per la politica per remunerare quello che perdereste sul vostro patrimonio presidenziale. Sentiamo qualche ascoltatore. Davide da Torino. Davide, prego. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Giannino, buongiorno anche ai suoi ospiti. Sì. Io sono un medico di 43 anni, iscritto ovviamente all'ENPAM. Sì. E dovrei dire che vi devo ringraziare per tutte le informazioni che mi avete fornito questa mattina, ma più che è stata un'inondazione di informazioni. E guarda caso, sul nostro sito EMPAM non risultano assolutamente date. A noi questa adesione del Fondo Atlante è caduta sulla testa per mezzo degli organi di stampa, e poi, adesso se non sbaglio, 1 o 2 giorni fa l'EMPAM sul suo sito ha prodotto una piccola informazione che a me sinceramente crea molto imbarazzo. L'abbiamo vista e segnalata, in effetti, è anche commentata. Esatto, io ho il terrore che i contributi, noi quest'anno dovremmo versare il 14% se non vado errato del nostro reddito, questo 14% arriverà al 19%, abbiamo una quota fissa da pagare tutti gli anni. Ho il terrore che quando io avrò 75 anni e col catetere in sala operatoria dovrò finalmente affrontare il mio ultimo anno lavorativo, mi si venga a dire: ah, abbiamo sbagliato gli investimenti anni fa, e tra questi anche il Fondo Atlante. Io rimango un attimino perplesso sul fatto che un ente il cui scopo è quello della previdenza e dell'assistenza di una categoria specifica di cittadini, in maniera, non mi permetto di dire leggera, ma senza informare i propri iscritti, senza sapere l'ENPAM, i direttori dell'ENPAM, il presidente, ha fatto uno studio di fattibilità e di impatto di questo loro investimento? Ha fatto uno studio sui rischi? Noi che cosa, come avete giustamente detto voi, andremo mai a guadagnarci? Io sono sinceramente terrorizzato. Davide, ripeto, noi concepiamo il nostro mestiere anche proprio perché le informazioni vi arrivino. Poi abbiamo qualche voce prima della fine della trasmissione di qualcuno degli enti e sentiamo come la pensano. Andrea da Pistoia. C'è ancora Andrea? Ci sono. Eccoci, buongiorno. Andrea, dica. Buongiorno a tutta Giannina e ospiti. Sì. E io chiamavo per l'altro argomento, quello delle assunzioni. E ci dica. Ho una perplessità perché sinceramente io sono un imprenditore, non vedo tutte queste assunzioni in giro. Io sono in Toscana e non le vedo, anzi vedo vari licenziamenti, varie perdite di posti di lavoro. E venuta fuori questa cosa nei social, che nelle assunzioni vengono considerati anche i voucher, e questo mi spiegherebbe allora questi numeri. Sto dicendo una sciocchezza o voi avete qualche riferimento? No, i voucher sono in enorme aumento e lo sappiamo, però sul totale degli occupati, lì sono i contratti sugli occupati di vario tipo e il lavoro autonomo. Quindi il monte voucher, mi prendo la responsabilità di dire che non ha a che fare, che è in enorme crescita e su cui c'è un intervento, come sa, del governo da questo punto di vista, perché si sono resi conto che bisogna parametrarlo a criteri e controlli maggiori. Sentiamo ancora Adriano da Lucca. Adriano. Buongiorno. Sì. Allora, buongiorno a tutti, in particolare di nuovo a lei, signor Giannino. Ma al punto andando... Allora, ascolti. Stiamo parlando di precari, lavoro nuovo, uno più, uno meno, si figura. Andrea, andiamo al punto. Faccio una piccola incursione. Sì. Allora, io vorrei che a settembre il signor Oscar Giannino. Parliamo degli argomenti della puntata. No, questo me lo permetta, Oscar, via. Io sono un medico ipovedente e ho bisogno di lei. Perché non mi faccia commuovere, di una chiarezza, di una lucidità e di una completezza spaventosa. No, spaventosa, sì, basta guardarmi in faccia. Ma detto questo, intervenga sull'argomento, perché sennò mi crea un mucchio di guai con la radio. No, detto questo, io vorrei parlare a questo punto di un po' di purpurri a questo punto. No, però deve essere sintetico, su. Sì, allora rispondo al medico. Sì. L'ENPAM è un ottimo ente previdenziale, commetterà qualche piccolo errore ogni tanto come ha commesso. Ma lei è però... contento che abbia messo i soldi, se mette i soldi in un affare così complicato come questo del recupero degli NPL? Per chi non risica non rosica. Ma... Secondo me va a buon fine. Lei non è di Siena, vero? No, io sono di Lucca. Vabbè, l'ho detto per battuta. Da braccino corto anche, oltretutto. Ascolti, e poi vorrei sapere che cavolo vuole di nuovo questo passera con questa sua proposta. Beh, guardi Adriano, noi abbiamo malapena citato con una battuta, perché per noi tutti è un mistero come uno come lui, che ha guidato la prima grande banca italiana, le Poste, eccetera eccetera, si presenti la sera prima di una questa manovra di una tale complessità che, come avrete capito, è stata contrattata e vidimata passo passo con le autorità europee, e come la sera prima lui da quello che abbiamo saputo, poi chiedendo a UBS, con un incontro che aveva avuto con Orselli gli aveva detto fammi vedere la tua proposta di piano, però la sera prima manda una lettera così. E evidentemente posso dire, io gli voglio attribuire una finalità logica che molte altre non vedono e dicono semplicemente ha perso la testa. Io non credo che quello che passa abbia perso la testa. Evidentemente ha messo lì una cosa dicendo: guardate, io non credo molto alla complessità di questa vostra cosa, ne propongo un'altra in maniera tale che se poi non funzionasse vediamo. Ecco, questo è il massimo a cui posso arrivare se dovessi immaginare. Certo, però le modalità sono molto singolari. SMS? Allora, Stefano da Milano, sì. MPS paga gli errori del passato che nessuno di voi ha permesso di evitare. Ora, vorrei che lei ci stesse sopravvalutando, perché io posso anche andare a farmi esplodere davanti alla rocca, ma penso che poi alla fine loro se ne freghino e tirino dritto. Però per Stefano, se vuoi mi mandi l'indirizzo mail, la mia mail è ogiannino@io.com, ti mando lo storico anno per anno degli articoli che io ho dedicato da moltissimi anni alle ragioni per cui il collateralismo politico e la cecità dei regolatori dovuti al collateralismo politico hanno determinato negli anni, ti mando le mie proposte 2011, 2012, 2013 eccetera eccetera, quindi fattualmente certo non mi hanno dato retta, però c'è chi se ne è occupato. Poi Marco da Arezzo che ha mandato 20 sms, quindi probabilmente c'è anche un problema, come dire, di disagio. Come mai Banca Etruria e le altre tre banche non sono state salvate? MPS? Sì, grazie. Dunque Marco, verifichi il suo telefono perché probabilmente spara sms in eccesso. Poi le quattro banche risolte erano in dissesto, cioè avevano equity negativo, come direbbero quelli che hanno fatto il militare alla McKinsey, mentre Montepaschi fa utili simbolici auspicabilmente crescenti, ma Montepaschi al momento non è in dissesto. Non risponda grazie con altri 20 sms perché crea problemi ai server della radio. Grazie. Allora, questa è un'altra cosa che mettiamo lì sul tavolo, perché nel frattempo non è che voglia dir poco il fatto che quanto è costato al fondo interbancario che abbiamo impegnato per i 3 anni per quelle 4 banche che erano poco meno dell'1% del totale di attivi del sistema bancario italiano. Voi capite che se ci hanno messo 1,7 e le proposte non arrivano oltre 500 milioni per rivelare Good Bank fatte da Apollo e Lone Star, significa che nel frattempo ci perderò 1,2 miliardi, il che su il ritorno delle logiche mutualistiche improvvisate italiane è un altro elemento da tenere sul tavolo, cari nostri compari, eh? Il che significa che non bastano interventi patrimoniali, esatto, ma bisogna discutere di modello di business e modello organizzativo, che è il vero messaggio di ieri sera, ed signori, è per questo il peso del rischio reddituale si è notevolmente incrementato in proporzione invece al rischio di altra natura, diciamo quello macroeconomico e quello patrimoniale. Ed questo è il tema vero. Per questo che noi abbiamo un altro ospite che si aggiunge, che è tra coloro che hanno redatto un bel rapporto, perché è sintetico, secondo me si legge bene anche per chi non è del mestiere, naturalmente è irto di indici, dati e tutto quello che volete, però è esattamente centrato su un'analisi delle caratteristiche di fondo strutturali che preoccupano di più e su cui bisogna invece intervenire per aumentare la redditività delle banche italiane. E infatti per questo è con noi collegato, è lì un po' d'aspetto che aspetta, per questo lo ringrazio, Giuliano Ciccioni, che è partner di KPMG, che è esattamente quella che ha redatto il rapporto. Grazie di essere con noi. Buongiorno Giannino, grazie a lei, grazie a tutti. Buongiorno. Allora, innanzitutto posso chiedere una cosa prima della prima interruzione che arriva sul domani? Ma lei è d'accordo che in realtà al di là di tutto questo di cui stiamo parlando, il problema fondamentale, come ripete sempre Carlo Alberto, è il modello di gestione, perché o qui facciamo decollare la redditività di questo sistema bancario gravato da costi fissi così elevati, da margini di intermediazione azzerati, margini di intermediazione azzerati, perché i governi per il loro debito pubblico e i minori oneri di interessi vogliono tassi negativi a 2 milioni di anni ancora di qua. Però il punto di fondo è questo, al di là se serva lo Stato o non serva lo Stato, come diciamo noi, per lo smaltimento dei crediti deteriorati, gli aumenti di capitale, è un po' il punto trascurato, perché tutti dicono ma no, stiamo andando bene sulla redditività, non direi, no? Sì, sono d'accordo, sono totalmente d'accordo, nel senso che se noi guardiamo il percorso fatto dalle banche da quando la crisi è conclamata negli ultimi 4 anni, vediamo un grosso lavoro sulla componente capitale, rischio, liquidità, quindi sugli aspetti, diciamo sulle precondizioni per mettere in sicurezza il sistema bancario. Però vediamo un percorso fatto oggettivamente sul fronte del modello di business e della sostenibilità e della redditività, ma ancora tanta strada da fare, soprattutto perché il percorso fatto, come dire, paradossalmente con il peggioramento delle condizioni esterne, esogene per il settore bancario, quindi l'abbassamento dei tassi di interesse, la stagnazione dell'economia, allontana sempre di più il punto d'arrivo, nonostante l'operazione di ristrutturazione già fatta. Sì, Giuliano, con un punto importante che, come ha giustamente segnalato il vostro report, il cost income ratio, cioè l'indicatore più sintetico del rapporto della struttura dei costi rispetto alla redditività, è peggiorato quest'anno, è peggiorato tanto. Quindi si fa 2 passi avanti, perché un po' di filiali si chiudono, un po' di modello organizzativo, ma si fa un bel passo indietro in termini di incidenza dei costi. naturalmente i sindacati su questo lo dico perché non sono qui presenti, però dicono: beh, ma insomma, che cavolo volete? Siamo 70.000 in meno rispetto agli anni della crisi, ed è lo stesso numero che c'è anche nel rapporto KPMG. Oh, attenzione, ci fosse qui il capo Sileoni, il capo della Fabi, direbbe: caro Alberto, cosa qua cacchio immagini? Di buttare fuori altri 100.000 dipendenti bancari? No, di cambiargli il loro mestiere. C'è tanto bisogno di fare banking in maniera diversa. Io non voglio far licenziare, e lo sa bene Sileoni, perché ne abbiamo parlato più di una volta. C'è da ampliare il perimetro spaziale e temporale del banking. Di questo magari parliamo con Giuliano. Esatto, tra un minuto, anche perché altrimenti l'alternativa, cari ascoltatori, sapete come le banche stanno tentando di parare, di venire meno al margine di intermediazione dei tassi di interessi negativi? Alzando le commissioni. Che infatti è ciò che ha salvato le chiappe, se possiamo dire, esatto, ai bilanci di quest'anno, insieme a un po' di carry trading. È un po' di carry trading. Però, per esempio, Intesa, in questa, e la banca italiana, e anche con questo sta la sua forza, che lo ha fatto di più. Attenzione che naturalmente un sistema in cui il margine commissionale è l'unico canale di redditività significa qualcosa. Significa che quando arriva fintech non ce n'è più per nessuno. Tra un minuto ripartiamo di qua. Della belva. Eccoci qui, tornati con i nostri compari dei conti della belva. Giuliano Codagnone, che è sempre che è sempre con noi qua in studio, scusami Gianluca, e con Giuliano Ciccioni invece, ecco qua la radice dell'errore di KPMG, perché ci siamo fermati a un punto. Qui non è che si può andare avanti troppo oltre sostituendo i margini di intermediazione di un modello bancario che resta tradizionale come quello italiano, sbandierato con fierezza: non abbiamo i derivati, noi siamo banche tradizionali, non parliamo inglese. Ma detto tutto questo, non è che si può sostituire a oltranza con i margini di commissione. Abbiamo visto che sui costi fissi c'è un problemino. Carlo Alberto dice da sempre che infatti aggiriamo con un modello diverso, organizzativo, gestionale, tecnologico, di banca. Sappiamo che nel sistema, per così dire, con le sue caratteristiche istituzionali italiano, non la pensano tutti come Carlo Alberto, scusa, mi permetto questa interpretazione, Carlo Alberto, ma perché dicono significherebbe intervenire a piedi uniti sui dipendenti e sulle strutture organizzative. E quindi, Ciccioni, la strada che indicate voi invece qual è? Allora, il discorso dei dipendenti è un discorso, diciamo, di modalità e strumenti con cui gestire questo percorso. Che se però guardiamo le cose nel medio periodo, oggettivamente il sistema bancario è un sistema in maturazione e con necessità di ristrutturazione, e la storia ci insegna che tutti i settori che si sono dovuti ristrutturare hanno ridotto le capacità di creare posti di lavoro. Quindi su questo non credo che potremo esentarci. Poi è un problema di strumenti che verranno applicati. Allora, la strada, io faccio due commenti alle vostre, diciamo, osservazioni, certo, precedenti. Per quanto riguarda il margine di commissionale, è vero che non può crescere indefinitivamente, però credo che sia un po' riduttivo dire che hanno alzato le commissioni. C'è stata anche una grossa operazione di espansione della raccolta indiretta, certo, quindi della capacità di gestire gli investimenti della clientela, e questo ha portato chiaramente un incremento dei ricavi connessi a questa attività. C'è da dire che il 2015 con remunerazioni però che subiranno una forte pressione competitiva, quindi diciamocelo, perché sennò questa cosa non è sostenibile. È vero che lo spostamento verso la raccolta indiretta, la gestione, è un elemento positivo perché fa maturare la cultura del risparmio, però le marginalità con cui questo è stato fatto sono insostenibili. Peraltro c'è stato nel 2015 un effetto mercato, cioè i mercati erano stati ancora positivi, esatto, fino a quasi, fino al 2015. Voi sapete che, diciamo, la remunerazione è frutto dei volumi. Chiaramente i mercati che crescono fanno espandere i patrimoni, quindi espandere anche. Una cosa analoga sta facendo Poste, post quotazione, perché stanno spingendo furiosamente il risparmio gestito. Esatto. Anche lì rendimenti decrescenti, marginalità decrescente, dopodiché si arriva alla fine della strada e si deve capire che fare da grandi. Prego. Certo. Prego. Questo è un punto, è un elemento. Per quanto riguarda il tema del modello di business, allora c'è da dire questo: Oggi le banche si trovano all'indomani di una fase fortemente espansiva dei propri modelli distributivi. Se guardiamo la crescita degli sportelli bancari, insomma, i numeri li conosciamo, siamo arrivati, il picco è stato toccato a 32.000 sportelli nel 2008. Questo a mio avviso è stato sicuramente un errore strategico, perché il paese non cresceva, gli aggregati macroeconomici non crescevano, comunque non crescevano quei tassi, un'industria che lavora su base locale e tendenzialmente è fortemente correlata agli andamenti macroeconomici, non poteva pensare di crescere in quella maniera la propria capacità distributiva. Quindi oggi siamo di fronte a un settore che è tipicamente in una fase di eccesso di capacità operativa e distributiva. Quindi questa capacità va ridotta nel tempo, va razionalizzata. Parlo soprattutto delle reti distributive. Anche perché il percorso tecnologico è ormai in corso da anni. Allora, come se ne esce? Se ne esce tendenzialmente con un processo di ristrutturazione delle reti distributive che, con i modi e i tempi più idonei, ma chiaramente comporterà una riduzione della forza lavoro impiegata nel settore bancario, o almeno, come si diceva precedentemente, in determinate attività del settore bancario, e se ne esce con una capacità della banca di fare più servizi, che sono i servizi di gestione degli investimenti, e sicuramente con una capacità di erogare credito sui bisogni della clientela privata e d'impresa a sostegno di una crescita, di investimenti e della... Però Giuliano, devo ricordare i tuoi numeri bellissimi. Spese di personale più 0,6%, invece spese amministrative più 5, più 10, più 13, allora, cioè, capisci? Spese dello sportello più 19, più 18, scusa, più 13%. La verità, guarda, è che non è il personale che sta aumentando, è tutto il resto del back-end, se volete anche i costi di compliance. Vogliamo commentare che si stanno appesantendo le banche su questo? Allora, ci sono due fattori a nostro avviso. Uno è quello a cui fai riferimento tu, che è l'incremento dei costi di compliance, in generale dei costi di funzionamento delle infrastrutture in senso lato di una banca, che è un elemento che appesantisce. C'è anche un altro elemento che è dato dal fatto però che l'avvio dei percorsi di ristrutturazione genera nel breve periodo, come sappiamo, questo vale per tutte le imprese, genera un incremento dei costi nel brevissimo periodo. Se io attivo un fondo esuberi del personale, ho immediatamente dei costi. Alzo i costi. Dei costi più elevati, così come ho dei costi professionali, eccetera. Però diciamo complessivamente, perché come me io devo fare il guardiano del tempo, che è l'unica cosa che non possiamo davvero comprare, che pensino quelli che chiedono ai banchieri centrali di sfidare la mortalità. Però detto questo, il punto, ecco, tutte queste cose di cui stiamo discutendo dovrebbero essere più presenti nel dibattito. Perché? Perché noi che ci stiamo inventando una modalità diversa per intervenire in ogni crisi, le quattro banche risolte, Veneto e Vicenza, adesso Siena, certo alcune erano in... risolte appunto e altre non so, però dimentichiamo che il problema di fondo è che poi Siena dovrà trovare qualcuno che se lo prende, che nelle BCC la riforma, secondo me erroneamente diluita, lì c'è bisogno di un'ondata di fusioni che venga dal sistema, che continua a dire che no, piccolissimo è bellissimo, eccetera eccetera, e ciascuna di queste operazioni, che sono l'asse portante per il futuro dell'identità del sistema bancario italiano, dovrebbe mettere esattamente queste questioni qui al centro di ogni scelta che si fa. Invece questa roba è assente dal dibattito, è presentissima negli analisti, e quindi grazie a Ciccione, alla sua squadra e a tutti gli altri che lo fanno per mestiere. Però, cara informazione, parlo agli autorevolissimi colleghi, ecco, di questa roba qua noi dobbiamo parlare, perché noi dobbiamo rivolgerci ai clienti, aprirgli la testa su cosa hanno diritto e dovere di chiedere, attenzione alle remunerazioni e così via. Ecco, questa roba qua secondo me noi non la facciamo. Abbiamo fatto in piccolo però una cosa, e torniamo al punto di cui parlavamo prima, mentre saluto e ringrazio Giuliano Ciccioni, perché ci ha raggiunto, grazie a lei, ci ha raggiunto intanto il coordinatore della Commissione Previdenza dell'Associazione Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, che è stata quella che a un certo punto ha alzato la voce, ha rotto il concerto del viva viva, esatto, a Tranti 2, e ha detto neanche per idea. Esatto. E così Bertozzi, intanto grazie di essere con noi. Sì, buongiorno a tutti. Come mai? Ma come mai? Perché è da un po' che quando che le casse in generale, no, vengono viste un po', come abbiamo scritto nella nostra lettera aperta, come un luogo in cui vi sia un tesoretto, no, a disposizione quando ce n'è bisogno. E invece i lettori non attenti dei bilanci delle casse in generale si fermano a vedere 70 miliardi di patrimonio e pensano che lì ci sia un tesoro da utilizzare quando c'è bisogno, senza pensare che invece quel patrimonio, che è solo una componente dell'attivo, perché non tiene conto del passivo che le casse hanno assunto, no, col debito, con l'obbligo poi di erogare prestazioni quando sarà ora, sembra che sia un luogo in cui ci sono delle risorse finanziarie da mettere in qua e in là, e questo è stata un po' la goccia, no, che ha fatto un po' traboccare il vaso, perché lo diciamo sempre quando si parla di politiche fiscali, di spending review che vengono applicate a nostro parere in maniera impropria alle casse di previdenza, e questo è un ulteriore aspetto a parte l'importo dei 500 milioni. Ma il giudizio specifico invece sulla pressante richiesta di investire in questa straordinaria opportunità dell'economia reale, parliamoci chiaro. Diamo atto, nel documento firmato da Bertozzi si è meno diplomatici per una volta di Carlo Alberto, perché leggo che questa richiesta, il verbo usato è viene imposta. Aperta parentesi, di fatto si tratta di tentativi di moral suasion ad enti che innanzitutto devono limitare i rischi, perché in primo luogo è il capitale che va conservato. Loro hanno detto: ce lo volete imporre, è vero Bertozzi? Allora, quello che imporre è impossibile, no? Nel senso che fortunatamente siamo in uno stato di diritto, le casse di previdenza sono delle associazioni normalmente di diritto privato che sono vigilate dal Ministero del Lavoro e dell'Economia, ma a cui per ora. Non si può imporre nulla, no? Quello che sicuramente invece è quello che avete detto anche durante la trasmissione, che è apparso in qualche intervento, è questa forma di dire: se fate questi investimenti vi daremo, no? Esatto. Che è quello che a noi non assolutamente non piace, non è questo l'approccio corretto. Abbiamo sottolineato che le casse di previdenza sono degli enti privati, ma che svolgono una funzione pubblica, che è quella di garantire il diritto costituzionale alla pensione dei professionisti, che lo fanno in maniera privata e senza oneri per lo Stato, e quindi vanno aiutate a svolgere questa funzione. In teoria, stante la condizione dell'INPS, andrebbero incentivate invece che pesate, aggravate fiscalmente, come questo governo ha fatto. Esatto, infatti quando con la scorsa manovra finanziaria, no, ha portato la tassazione delle rendite finanziarie al 26%, abbiamo detto è assolutamente illogico, cioè nel sistema europeo a cui noi facciamo continuamente riferimento, il sistema di tassazione degli enti previdenziali non è assolutamente quello italiano, cioè la tassazione dei rendimenti delle gestioni durante la fase di accumulo non viene assolutamente tassata, verranno tassate le pensioni nel momento dell'erogazione. A me interessava questa grande prospettazione di redditività che vi è stata proposta o imposta nell'investimento in Atlante 2, visto che non riusciamo a capire neanche come funziona, come fanno a garantire, cioè qui abbiamo il Gianluca che ci mette tutta la sua scienza per farci capire come funziona o forse non funziona. E voi come fate a investire una roba che non si capisce nulla? La risposta però tra un minuto, perché abbiamo il traffico. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qua, ci siamo interrotti prima del traffico con una domanda che Carlo Alberto faceva al nostro ospite, cioè al coordinatore della Commissione Previdenza, l'Associazione dei Dottori Commercialisti, quelli che hanno scritto una lettera aperta al Presidente del Consiglio e a Paolo dicendo: guardate, no, voi non potete chiederci i soldi per una cosa così rischiosa come Atlante per il recupero crediti. Ripeto, abbiamo tentato di spiegare un meccanismo che non è chiaro neanche a noi dopo che è stato approvato ieri e che comunque ha complessità di tempo, di modalità, di interazione di soggetti, che effettivamente rende, diciamo, speriamo, non troppo a rischio la possibilità di recuperarci soldi, perché avete sentito il numero che ha fatto il nostro amico Gianluca. E Bertozzi, allora, che vi hanno prospettata questa redditività di questo impiego? Allora, in tutta sincerità, come emerge dai documenti anche scarni, no? Perché che sono usciti da ADEP non si sa ancora nulla. Infatti noi sottolineiamo questo aspetto, cioè invitiamo il governo per la sua parte e le casse, e ovviamente ci rivolgiamo alla nostra cassa di previdenza. Quando fanno degli investimenti, noi già investiamo come cassa nell'economia reale, non è che lo facciamo perché ce lo dice il governo, perché la nostra funzione quella di investire il capitale al fine di creare futuri rendimenti, ma abbiamo delle procedure, delle prassi precisissime che valutano assolutamente rischio rendimento. Siamo una cassa di previdenza, non siamo un fondo speculativo. Non siamo un fondo speculativo, quelli che criticano loro, tranne che poi vengono da voi trattandovi come tali. Esatto, e il Ministero addirittura ha in corso l'emanazione di alcuni regolamenti che rendono ancora più rigorosi. Ma è un altro piano del MEF quello. Quindi. Sono Gianluca, scusa, volevo fare una domanda al nostro gentile ospite. Siccome noi non abbiamo visto la presentazione di Atlante 1, no? Qui sembra sempre Volante 1, Volante 2. Esatto, ma la presentazione la presentazione di Atlante 2 no. Io volevo chiederle, visto che anch'io mi occupo di rischio rendimento, matching delle durate, eccetera, eccetera, visto che voi avrete probabilmente un profilo dei vostri impegni futuri, che sono poi le pensioni che pagate, certo, di un certo tipo, e corrispondentemente dall'altra parte l'attivo dovrà avere delle caratteristiche tali, diciamo così, da equiparare le entrate e le uscite nel tempo, no? Diciamo. Certo. Che in inglese si chiama matching. Quando vi hanno presentato Atlante 2, se ve l'hanno presentato, vi hanno dato un'idea del rischio rendimento e della durata dell'investimento? Domanda allora, retorica. No, non l'abbiamo vista. Noi come associazione dei dottori commercialisti non abbiamo partecipato all'incontro ADEP, a cui ha partecipato un rappresentante del consiglio di amministrazione della nostra cassa. Ma penso che tutti ne siano ancora in attesa. Ecco, però cacciate i soldi subito, poi dopo vi spiego. Fidatevi. Prima come abbiamo sempre fatto e come è necessario, bisogna che gli organismi e gli uffici esaminino nella nostra casa tutto il fascicolo, tutta la situazione, dopodiché arriveranno a una determinazione che, se sarà positiva, ripeto, noi in economia reale investiamo, ma dopo aver visto comunque onore a voi, a cui hanno fatto seguito altre associazioni. Grazie. Di professionisti che hanno sollevato un punto, perché è un punto istituzionale del rapporto che deve avere il potere politico, le istituzioni dello Stato verso chi adempie in maniera complementare con risorse private, però ha una funzione fondamentale, cioè quello dell'equilibrio attuariale dei conti della previdenza in un paese che è totalmente squilibrato su questo, raccontiamola giusta. Quindi noi non possiamo chiedere a chi lavora oggi, cioè ai più giovani, di fotterli per cose che non c'entrano niente con questa roba, per cui questo capitale raccolto e il patrimonio va amministrato con giusto rigore, non può essere lo Stato a dimenticarselo per primo, ecco, questo è il punto di fondo, e quindi, questa è la nostra funzione, esattamente, non vogliamo abdicare. Esattamente. Allora, grazie anche a Bertozzi, ci ha raggiunto in extremis da un concerto, no, lo sto scherzando, del boss Renato Cifarelli. Renato, come stai? Io bene, domani è il concerto, e lo sapevo, vedi, io l'ho detto per dire, domani, invece tac, stai facendo le prove del tour europeo a Zurigo. Ma c'è un nuovo disco che esce, ho già letto. No, ma non è un nuovo disco quello lì, lo sapevo, è una collezione che dai, allora il tuo contributo prima della pausa estiva, sperando di risentirci voi di allora, sicuro. Allora io non so. volevo fare gli auguri di buone vacanze a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. Oh, bravo. Io sto sempre abbastanza lontano dagli uffici pubblici, ove possibile, però ogni tanto per questioni lavorative mi tocca frequentarle. Questa settimana ho frequentato un ufficio pubblico, di cui non vorrei fare il nome, e dove ho trovato una persona su una scrivania all'ingresso, che nel 2016, tanto per darti l'idea, non aveva neanche un computer. Io sono stato lì in attesa circa 20 minuti e questa persona ha passato 20 minuti a guardare la scrivania. Allora volevo farle l'augurio di buone vacanze, perché se non altro in vacanza, non so, si può leggere un libro, fare il bagno, ma guarda che merita solidarietà, perché se un'organizzazione lavora di questo tipo genera frustrazione terrificante, oltre che abbassare la produttività. Quello che io volevo dire era proprio questo, cioè poi ci diciamo perché a volte ci sono i dipendenti della pubblica amministrazione che sono frustrati. Ma allora deve essere terribile non aver nulla da fare, molto di più che avere molto da fare. Poi intendiamoci, ci sono tantissime persone nella pubblica amministrazione che lavorano come in tutti i posti, come ci sono persone che non lavorano nel privato. Però è proprio qua un problema di, come dicevi tu, di organizzazione del esatto, lavoro. Di carichi, cioè, sì, gli, di carichi di lavoro, sì. Dategli qualcosa da fare. Sì, sì. Questa povera persona, perché poi alla fine star lì veramente guardava la scrivania, è vero, mi ha messo è vero, tristezza, è vero, mi ha messo una tristezza. Vedi, non ce lo aspettavano questo tocco da no, ma è dai tempi della riforma Brunetta, quando si diceva con i tornelli restano chiusi dentro a fare una cippa, quello è il problema, carichi di lavoro e organizzazione. Dai, ragazzi, questa settimana c'è stato l'ennesimo annuncio del prossimo decreto attuativo della riforma Madia, che dice una serie di sconvolgenti novità sul futuro della pubblica amministrazione. Vedremo, vedremo. Nel frattempo io mi sono preso tutti coloro che dall'entrata in vigore del decreto Madia sul famoso licenziamento in 48 ore dei conclamati casi di furbetti del cartellino, non in un solo caso fino a questo momento si è arrivati alla risoluzione del rapporto di lavoro in 30 giorni. Non in un solo caso, lo dico cari ascoltatori, perché il nostro mestiere come watchdog, cioè quelli che devono controllare le cose, il giornalismo, è questa roba qua, non è compiacere il potere. Non è compiacere il potere né quello politico, né quello delle banche, né degli imprenditori che ti fanno scrivere ai giornali viva le banche perché hanno i debiti impegnati nelle banche, perché magari sono ancora in piedi perché hanno avuto i loro debiti, quelli sì ristrutturati dalle banche, vale per Carlo De Benedetti, vale per gli ex azionisti RCS. Questo è il giornalismo in cui credo io, e per cui quest'anno sono stato molto fiero di presentarvi questi fenomeni, come sono secondo me Carlo Alberto Caravale Maffè, Mario Seminario, Renato Cifarelli, gente come Gianluca Condagnolo. Questa è la gente che io voglio sentire in radio, che ci sia io o no. Buona estate a tutti, buona estate a voi cari compari. A settembre Conte la Belva torna con l'oro. Buona estate.